Grazie alla bellissima voce di Janis Joplin. Con lei siamo ormai entrati da un po' di minuti, ben 8 nella nostra ultima ora, gli ultimi 60 minuti che ci accompagneranno anche quest'oggi sino alle 12, poi ci sarà Claudia con voi dalle ore 12 alle ore 14. Per ora ci sono i Cream, questa I'm So Glad. I'm so glad. so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. So you make me wanna come on now, come on now, come on now, come on. Pezzo dei Cream che il buon moderatore della Rock Family, del sito rockfamily.it, dice uno dei miei brani preferiti. Grazie a te naturalmente. E poi abbiamo ritrovato anche le note di questa Shout. Ed ora in sequenza AC/DC con alto, più che mai alto voltaggio, e gli Scorpions con Holiday. Doing good time and fun. Let me take you far away. You like a holiday. Salutone a Samantha da Genova che dice: questa è stata la colonna sonora del mio primo amore, Holiday degli Scorpions, che bei momenti, grazie. Grazie a te Samantha, naturalmente buona giornata e buon lavoro. Un saluto anche ad Aspro e Ringhio, spero di leggere bene perché alcuni simboli, alcune lettere non sono state ben decodificate dall'apparecchietto SMS. Melot Bikers Brigade Firenze si firmano, spero, naturalmente. per il salutone va anche al rinnegatore, buona giornata anche a lui. E allora diamo il via al videogame di questa settimana. La prima persona che scrive nome e cognome nonché la città da dove invia l'SMS indirizzandola al 335-100-7777 all'opportunità di vincere il videogame Viking per Xbox 360. Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on, let me know. This indecision's bugging me. Indecision, me molesta. If you don't want me, set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?